Italia in controluce. Benvenuti su Italia in controluce, in studio vi parla Daniele Biacchesi e qui con me Laura Bettini. Oggi parliamo del terremoto, ma parliamo dei tanti sindaci che si rivolgono alla politica in queste ore abbastanza confuse della politica nazionale, dove si freme per realizzare un nuovo governo. 9 mesi dopo il sisma che ha colpito l'Emilia sono ancora troppi i problemi di una delle aree più produttive d'Italia, che si trova a dover fare i conti con 2 crisi contemporanee, quella economica internazionale e quella che poi si è innescata dopo il terremoto. In sostanza, cosa chiedono i sindaci? E secondo voi, soprattutto questa domanda la vorrei fare per gli abitanti delle zone colpite dal terremoto, so che sono molti e che ci ascoltano, cosa chiedete al governo? Allora, Laura Bettini, innanzitutto io saluto il sindaco di Mirandola, Maino Benatti. Buongiorno, sì, Maino Benatti. Sì, a voi. Allora, i messaggi SMS, qui vi chiedo che cosa dovrebbero chiedere le popolazioni colpite dal terremoto al nuovo governo che si va formando. Soldi, aiuti materiali oppure qualche cosa di diverso, di differente, qualcosa che non si è fino adesso realizzato a pieno. 349-238-6666, Laura. Buongiorno, sì, il primo appello che io ho raccolto parlando con i sindaci di questi dei comuni colpiti, i comuni del cratere, direi che la prima richiesta che arriva è quella di formare un governo e prendere saldamente in mano la questione, perché l'incertezza è quella che spaventa più di tutti. Poi dopo sentiremo il sindaco di Mirandola Benatti se condivide questa preoccupazione. Al futuro governo si chiede di non distrarsi, di non dimenticarsi dei problemi, di fare il punto sulle priorità, di non dare nulla per scontato, perché c'è ancora molto da fare. Non possiamo nasconderci dietro l'idea che l'Emilia è una regione che si tira sulle maniche, come diciamo sempre, lavora. C'è molto da fare, c'è anche bisogno di aiuto. Non stiamo parlando qui di pale e piccone, stiamo parlando di progetti. Direi che una buona sintesi di tutto questo la fa il sindaco di Novi di Modena, che è Luisa Turci. L'ascoltiamo insieme a Daniele e poi dopo la commentiamo. Luisa Turci. Sostanzialmente mi verrebbe da dire, ma non è banale, che il nuovo governo sia ben informato che qui c'è stato un terremoto in questa parte dell'Emilia e che non l'abbiamo risolto. Ciò detto, noi abbiamo bisogno di alcune particolari attenzioni. Il primo tra tutti, per poter andare avanti, è che in questi comuni almeno, ma credo non solo, ci sia un allentamento del patto di stabilità. Perché senza questa operazione naturalmente noi siamo ingessati su una serie di obblighi e siamo incatenati e non ci viene consentito poi di fare le opere e gli interventi che sono indispensabili in un post-sisma. Poi abbiamo bisogno certamente di avere davanti a noi la possibilità di avere quelle risorse aggiuntive che già oggi sappiamo che mancano per i prossimi anni. Nell'immediato abbiamo le risorse destinate, ma sappiamo tutti che non sono sufficienti, quindi che ci sia una visione di futuro e di prospettiva per i nostri cittadini. Abbiamo bisogno per le imprese e per i lavoratori che ci sia la possibilità di ripartire, che i lavoratori abbiano la proroga della cassa integrazione speciale che scade il 30 giugno, quindi che ci sia la possibilità di avere il tempo necessario perché le imprese ripartano. E un'altra specifica dei comuni del terremoto è quella della deroga per le assunzioni di personale tecnico per la ricostruzione, per i controlli, per tutto quello che ci serve, altrimenti anche qui parliamo ma non arriviamo ad avere tutto quello che è utile perché questa regione riparta nonostante quello che è avvenuto. Questa è Luisa Turci, che la nostra Laura Bettini ha intervistato, il sindaco di Novi di Modena. Intanto stanno arrivando un po' i vostri SMS. Ce n'è uno che viene da Mauro Silvestri, da Finale Emilia, che ha fatto il 349-238-6666. Mi permetto di segnalarvi una mia lettera pubblicata sulla Stampa il 16 novembre scorso, dal titolo "Noi terremotati di serie B". Mauro sicuramente l'andremo a leggere, anzi adesso vedo anche di trovarla. Un altro nostro ascoltatore, Corrado Racomo, chiede che il vero problema è le popolazioni terremotate, i sindaci dovrebbero chiedere di abbattere la burocrazia, e chiede a me cosa dovrebbero chiedere. Io penso che i sindaci, non so se è d'accordo Maino Benatti, al di là delle questioni che sono state snocciolate da Luisa Turci, dovrebbero chiedere alla politica di non essere mai dimenticati, perché la politica tende nei suoi dibattiti anche un po' convulsi a dimenticare le cose. Non so se è d'accordo Maino Benatti. Io sono d'accordo, la politica a volte dimentica, e anche il sistema mediatico, perché poi per altri motivi, ma rischiano di dimenticare situazioni di gravità assoluta come quella di un terremoto che si è abbattuto su una zona che ha un PIL che è circa il 2% del PIL nazionale, che quindi in una situazione di così grave crisi può essere uno degli elementi di rinascita del nostro paese. Allora, c'è un ascoltatore, si chiama Alberto Zanini da Carbi, che ha fatto il 349-238-6666, dice: secondo lui ci vuole una commissione permanente governativa sul territorio che abbia direttamente a disposizione il fondo erogato dall'Unione Europea, che tutti i giorni non solo valuti i progetti di rinascita provenienti dagli interessati, ma che anche promuova dei progetti autonomi. Lo Stato, dice il nostro ascoltatore, deve pagare immediatamente tutti i debiti che ha con le imprese locali e di fiscalizzazione totale per i nuovi assunti. Queste sono le frasi che ci piacciono. 349-238-6666, Laura. Volevo chiedere al sindaco Benatti, poiché Radio 24 appunto non è la prima volta che torna a occuparsi di quello che è accaduto in Emilia, se in questi ultimi 30-40 giorni, da quando non ci siamo sentiti, almeno non dico solo con lei ma anche con gli altri sindaci, ci sono delle novità, diciamo, positive da segnalare, cioè quei finanziamenti che si aspettavano tanto cominciano finalmente ad arrivare o sono ancora sulla carta? No, incominciano ad arrivare. Noi abbiamo proprio oggi abbiamo fatto il punto della situazione rispetto ai finanziamenti che siamo riusciti ad erogare attraverso le risorse nazionali con il meccanismo del MUDE, che è un meccanismo particolare. Sono oltre 150 già i finanziamenti che il sindaco ha firmato in modo da poter andare in banca a prendere i contributi, quindi questi si stanno muovendo, i professionisti stanno facendo i progetti, e quindi la macchina è in moto. Ecco, diciamo così, bisognerà accelerare, il tema della burocrazia c'è tutto, al fianco del tema della burocrazia però bisogna sempre tenere attenzione massima alla trasparenza e alla legalità degli interventi, e quindi le due cose vanno di pari passo, ma insomma io credo che la macchina si sia messa in moto. Ecco, Andrea da Bologna, che ha fatto 349-238-6666, dice che secondo lui bisogna attivare dei gemellaggi con le città estere per consigliare, incentivare e controllare tutto quello che è possibile. Diciamo questo, non so, abbiamo veramente pochi secondi perché siamo veramente in chiusura. Ringrazio quindi il sindaco di Mirandola Maino Benatti per essere stato con noi. Diamo gli appuntamenti del Radio Day, giusto Laura? Proseguiamo nel corso dei giornali radio a occuparci del tema e delle richieste dei sindaci. Altro che rimborsi elettorali, scrive Alex da Bergamo, mandino i milioni alle zone terremotate. Questi sono alcuni dei vostri sms. Allora, ritorniamo puntuali da lunedì a raccontarvi l'Italia. La prossima settimana saremo molto più precisi per cercare di capire che cosa sta succedendo nella crisi politica italiana, e questo non lo faremo solo noi a Italia in Controluce, ma lo farà un po' tutta la radio, una radio dunque di servizio che cerca anche di far capire agli ascoltatori cosa sta accadendo, non solo raccontando i fatti. Vi ricordo la pagina e il gruppo di Facebook, il nostro sito radio24.it, la nostra mail controluce@radio24.it.